America 24 di Mario Platero. Nuovo colpo di scena di Barack Obama. Le voci che avete sentito, le acclamazioni che avete sentito sono dei soldati americani al fronte in Afghanistan. Hanno accolto questa visita a sorpresa del loro presidente, del loro commander in chief, una visita tanto più gradita in quanto è avvenuta nella Domenica delle Palme. Enorme ritorno d'immagine naturalmente per il presidente americano, un incontro anche di lavoro altrettanto importante con il presidente Karzai nel palazzo presidenziale. Da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. Sentiamo che cosa Barack Obama ha detto alle truppe. This is not simply an American mission or even just a NATO mission. Al-Qaeda and their extremist allies are a threat to the people of Afghanistan. Intanto un ringraziamento da parte degli americani e poi un appello: continuate la lotta contro i talebani, perché la vostra è una missione per la sicurezza degli Stati Uniti e una missione contro il terrorismo, una missione che deve giocare d'anticipo. Thank you very much. Il presidente è arrivato a sorpresa nella notte a Kabul. Posso raccontarvi alcuni retroscena. Noi stessi giornalisti al seguito della Casa Bianca non siamo stati informati. Ci avevano detto che il presidente avrebbe passato il fine settimana a Camp David. Invece l'imbarco alla base di Andrews, 13 ore di volo, atterraggio nell'oscurità, sicurezza militare al massimo, un volo di 15 minuti in elicottero dalla base di Bagram per arrivare a Kabul al palazzo presidenziale, un incontro a tu per tu con il presidente Karzai e poi il messaggio di fondo. Nel secondo mandato della sua presidenza, Karzai dovrà lanciare un attacco frontale contro la corruzione, dovrà debellare il narcotraffico, dovrà rilanciare l'economia e dovrà soprattutto premiare il merito all'interno della sua amministrazione. Non è chiaro quanto di tutto questo Karzai riuscirà a fare. Da parte sua ha detto ci sarà un impegno. Tuttavia, quando a Kabul hanno suonato gli inni nazionali, c'è stata una grande emozione che ha pervaso gli americani quando l'hanno sentita in televisione. How's it going, Barbara? Ecco, indipendentemente dalle conseguenze pratiche, immediate e concrete di questo viaggio, di questa improvvisata di Barack Obama a Kabul, resta la conferma di questa straordinaria offensiva del presidente americano sul fronte della politica estera. Ricordiamolo, ha avuto un incontro col primo ministro israeliano Netanyahu non più tardi di una settimana fa, un incontro in cui gli Stati Uniti hanno tenuto la linea dura nei confronti di Israele, che resta comunque l'alleato più forte nel Mediterraneo. Poi l'accordo con la Russia, che vi ho citato poco fa, ma ci sono degli appuntamenti davanti a noi. Il 12, il 13 aprile, 44 capi di Stato e di Governo verranno a Washington per partecipare a un vertice sul disarmo nucleare, un vertice che Barack Obama aveva annunciato al G8 dell'Aquila l'anno scorso. E dopodiché a maggio, sempre sul nucleare, vi sarà un incontro per la non proliferazione, la Nuclear Non-Proliferation Review, il cosiddetto NPR, che si terrà appunto a maggio a New York nel contesto delle Nazioni Unite. Ecco, in tutto questo ci sono indubbiamente degli importanti successi per Barack Obama. Resta un'ombra e non sappiamo se da qui all'incontro di Washington, se da qui a metà aprile, quest'ombra riuscirà a svanire. L'ombra si chiama Iran. L'Iran continua a sfidare gli Stati Uniti. Abbiamo appreso nel fine settimana che ci sono addirittura altri due nuovi impianti in costruzione in Iran, secondo fonti dell'intelligence. Ecco, di tutto questo parliamo con Jeffrey Mankoff del Council on Foreign Relations, un esperto di Russia, un esperto di rapporti militari con l'ex Unione Sovietica e delle offensive militari americane all'estero e soprattutto in Afghanistan. E a lui cominciamo col chiedere qual è la sua valutazione di questo viaggio, di questa straordinaria improvvisata in Afghanistan. I don't think necessarily it's a surprise, and I think you're right to, you know, characterize it as a kind of foreign policy offensive, you know, now that... Ecco, la valutazione di Mankoff è chiara. Questa iniziativa, questo viaggio di Obama in Afghanistan fa parte di una offensiva di politica estera. Secondo Mankoff, ora che la riforma sanitaria è stata approvata e dunque non richiede più questa straordinaria attenzione che ha consumato le energie e la forza politica dell'amministrazione, ci si può dedicare con un po' più di relax a faccende che restano aperte sul tavolo. Però Mankoff osserva che questo viaggio probabilmente resterà appunto più relegato alle vicende di immagine. Perché? Perché secondo lui la situazione in Afghanistan resta complicatissima. Karzai può aver promesso molto a Barack Obama su quello che il presidente gli ha chiesto, cioè sulla lotta al narcotraffico, sulla lotta alla corruzione, sul rilancio della ripresa economica del suo governo. Può aver promesso, dicevo, tutto questo a Barack Obama, Karzai, ma il fatto è che Karzai resta debole, non ha molti punti d'appoggio. È vero che gli Stati Uniti avevano appoggiato la sua elezione, ma è anche vero che Barack Obama, nel momento in cui annunciava che avrebbe mandato più uomini al fronte, addirittura 30.000 nuovi soldati, ha anche detto che per il 2011 gli americani, a missione compiuta, si augurava il presidente americano, se ne andranno. Ecco, questo toglie ovviamente gran parte della forza di persuasione che Barack Obama può avere nei confronti di Karzai. Dunque le aspettative sul piano pratico possono essere relativamente modeste, secondo Mankoff. E dunque, in questo contesto di offensiva di politica estera, chiediamo a Mankoff che cosa pensa dell'accordo firmato con la Russia, questo accordo sostitutivo dell'accordo START 2. So it's not a monumental agreement, certainly, but it's important, I think, one, because... Secondo Mankoff, del Council on Foreign Relations, l'accordo raggiunto fra Russia e Stati Uniti in materia di disarmo nucleare non è monumentale. Stima che vi siano soltanto 200 testate in media per parte in meno, però è un accordo che riguarda anche bombardieri, che riguarda sottomarini nucleari. Ci sono dei limiti precisi a quante testate ciascuno di questi mezzi potrà tenere, si parla anche di piattaforme di lancio. Dunque un accordo molto preciso, con un punto importante, sostiene Mankoff, quello della verifica. Per la prima volta la Russia accetta ispezioni, accetta scambi di informazioni, monitoraggi speciali. L'altro aspetto fondamentale è quello di un recupero di fiducia tra Mosca e Washington. La fiducia fra i due paesi era caduta al minimo dopo l'invasione da parte della Russia della Georgia. Fu il momento peggiore nelle relazioni dalla fine della Guerra Fredda. A questo punto riparte il processo negoziale. Un processo negoziale non facile, perché già per l'accordo sul disarmo si pensava di chiudere entro dicembre e invece siamo arrivati a marzo. La cerimonia formale sarà a Praga, sarà in aprile, dunque ci sarà di nuovo un momento di grande proiezione internazionale. Da tutto questo Barack Obama cercherà di recuperare un premio importante, e cioè la concessione per sanzioni all'Iran. L'Iran resta l'unico paese che continua a sfidare sia l'Occidente che le sanzioni delle Nazioni Unite. Sanzioni appropriate contro l'Iran, dunque accordo di compromesso possibile fra Russia e Stati Uniti. Beh, c'è da auspicarlo, perché nel momento in cui Barack Obama raccoglie alcuni risultati importanti, soprattutto quest'ultimo con questo suo viaggio in Afghanistan, ebbene l'Iran continua a minacciare. Abbiamo appreso nel fine settimana che Ali Akbar Salehi, il responsabile del programma nucleare, ha confermato che si andrà avanti con la costruzione nelle montagne iraniane di due nuovi siti per l'arricchimento dell'uranio. A questo punto si tratta di trovare le sanzioni appropriate. Gli Stati Uniti vorrebbero sanzioni durissime, sanno che la Cina è contro, ma se riuscissero a tirare dentro Mosca, beh, allora sarebbe già un grosso passo in avanti. quanti sappiamo che Medvedev nel fine settimana ha raccolto l'idea di sanzioni, ha detto però dovremmo discuterle con Washington. Ecco, l'apertura dunque è per un compromesso, sanzioni sì, forse non così dure come le vorrebbe l'America. Il tema andrà avanti il prossimo 12-13 di aprile negli importanti incontri convocati a Washington per il disarmo nucleare. Ci sarà di nuovo al centro dell'attenzione l'Iran. Se gli Stati Uniti riusciranno a strappare una dichiarazione comune, beh, per Barack Obama allora ci sarà davvero una vittoria importante. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Here I am, eccomi, ha detto il presidente americano nella domenica delle palme ai soldati al fronte in Afghanistan. Here I am è l'album che vi proponiamo oggi, un gospel che è in testa la classifica di Billboard ed è la prima volta in 54 anni che questo succede, 76.000 copie già vendute. Here I am nell'interpretazione di Marvin Sapp, un religioso di Grand Rapids. La canzone che abbiamo scelto è Would We Make It? Ce la faremo. There for me and I can say I'm stronger, I'm wiser, I'm better. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!